Martedì autogestito da femministe e lesbiche presenta. Liberamente. Liberamente. Liberamente. Liberamente. Martedì femminista autogestito presenta Liberamente. Di a da in con super tra fra donne. Di a da in con super tra fra donne. Martedì femminista autogestito. Liberamente. Liberamente. Allora, buonasera per il liberamente di oggi. Oggi nella nostra linea dei concerti ascolteremo un concerto del gruppo Blondie. Liberamente. Liberamente. Liberamente. Dunque, Blondie, un gruppo di musica americano che è stato fondato nel 74 a New York da Deborah Harry e Chris Stein. Il gruppo negli anni 70 diventa famoso in tutto il mondo, particolarmente perché mischia differenti tipi di stili musicali, come disco pop, rap, reggae, e conserva una base new wave. Considerato anche underground punk, il gruppo si separa in 82 e continua poi un po' e si riforma negli anni 77. Il concerto che propongo oggi è stato registrato in 83, dunque non si sentirà questo famoso Maria che è stato scritto in 99. E nel gruppo ci sono James Destri al piano, Nigel Harrison alla chitarra bassa, Chris Stein, fondatore del gruppo, alla chitarra, Clem Burke alla batteria e Debbie Harry che canta e che sta entrando in scena sul palco scenico. Thank you. Thank you all for coming out tonight. Yeah. E allora siamo su Radio Onda Rossa nel Liberamente di oggi e stiamo ascoltando un concerto di delle Blondi. E questo concerto si è svolto in 83, ho detto, a Toronto, mi sa. E dunque si continua ad ascoltarlo. Ovviamente tante gente, concerto da non lo so, 20.000 persone. Yeah. Yeah. E dunque Radio Onda Rossa, liberamente, martedì autogestito da femministe lesbiche, siamo alla fine del concerto dei Blondi. Sicuramente tornerà. La richiamano. Tutti in piedi. Eccola. E call me! Bye. E con questo fantastico brano di Blondie, Call Me, vi auguriamo una buona notte per chi va a dormire, per tutti gli altri una buona notte di sveglio e vi diciamo alla settimana prossima, ma non lasciamo i microfoni così, ma mandiamo alle per tutte, in particolare per Daria, questo brano del 99 di Blondie, Maria. Alla settimana prossima, martedì, autogestito da Lesbica e Femministe. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her? Makes you wanna die.